Io sono Augusto Tavella e abito a Savona e lavoro in banca e sono un piccolo collezionista. Sono qua per passione, mi piace, seguo le fiere più importanti italiane, cioè Bologna, Milano, Verona e occasionalmente altre più piccole. Chiaramente tutto deve essere proporzionato alle proprie possibilità, e le mie possibilità sono limitate, però mi tolgo qualche piccola soddisfazione ogni tanto. La radio a me piace molto, io per lavoro spesso sono in macchina e preferisco sentire la radio che sentire CD o altre cose. La radio secondo me è una cosa molto viva, mi piace cambiare, non è che oltre alla musica mi piace anche sentire programmi particolari, eccetera. Non so, da Radio 24 ai canali Rai o occasionalmente altre. Io sono ligure, quindi sento magari Radio Baboleo piuttosto che. Mi piace la radio, assolutamente. Penso che sia sempre una forma di comunicazione molto, molto importante. Quindi non soltanto per sentire musica, ma proprio anche per sentire informazione, quindi informazione generale, insomma. I radiogiornali piuttosto che programmi sull'informazione in generale. Ecco. Penso che qualunque progetto nasca da collaborazioni di persone, quindi anche nell'arte, senz'altro. Penso che appunto che qualunque progetto nasca dalla collaborazione di persone, quindi anche nell'arte, secondo me, la collaborazione, la partecipazione di più persone sia a livello diciamo di comunanza di spiriti e di idee, ma anche fattiva, quindi organizzativa. Sicuramente qualunque progetto non può essere portato avanti da una persona sola, sicuramente la collaborazione di più individui possono portare dei risultati importanti, sempre nella vita, secondo me.